o'clock Monday morning. If you ain't here, I'll hunt you and shoot you down like a duck. It's dog, Buford. Shoot him down like a dog. We'll bring peace. La compilation dedicata all'anniversario di Automatic for the People degli REM è veramente ricca di episodi significativi, infatti già ce ne siamo ascoltati parecchi nelle scorse settimane all'interno di Eclettica e ancora ci sono dei primi passaggi come quello che è avvenuto quest'oggi con Night Swimming rifatta dai The Rants che vengono dal Delaware. Poi invece dalla Scozia è stata la volta dei Frightened Rabbit a tenerci compagnia con Square Nine, che si è appena chiusa. Ed ora la canzone natalizia promessa che arriva da New York City, anche se loro sono giapponesi. Già li conosciamo perché abbiamo ascoltato qualche estratto dal loro ultimo album, si chiamano Asobi Sexu, ovvero sia sesso giocoso. E questa è Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, da un singolo che contiene anche un'altra canzone, in quel caso dedicata al Capodanno. Ripugnava maggiormente a Pietro Monatti che una condotta ispirata ai calcoli, agli impulsi e a tutte le altre arbitrarie giustificazioni dell'amor proprio. Oltre che da un disprezzo istintivo per le angustie, per le meschinità dell'egoismo, oltre che da un'ammirazione non meno istintiva per le azioni e i propositi generosi, l'odio per tutte le forme che suole rivestire l'amore di sé, e specialmente quelle dell'ambizione, della prepotenza e dell'interesse, gli era stato riconfermato da certe sfortunate esperienze della sua prima giovinezza. Questo era l'incipit delle ambizioni sbagliate di Alberto Moravia. I'd like for you to have this brand new Colt Peacemaker and gun belt. Free of charge. Free? I want everybody to know that the gun that shot Buford Tannen was a Colt Peacemaker. Hey, no problem. Thanks a lot. Of course, you understand that if you lose, I'm taking it back. Tell them I always knew I owe. È Eclettica che si sta avviando alla conclusione della sua prima parte, poi ce ne sarà una seconda per proseguire fino alle 20. Giulio Caperdoni che vi sta parlando. Ci siamo ascoltati Caribou nella versione Fortet Remix di Melody Day, prima ancora da Seattle Siberian con Belgian Beer and Catholic Girls, in una trasmissione in cui sto leggendo Alberto Moravia, in cui vi sto facendo sentire gli spazi cinematografici dal terzo episodio della trilogia, appunto, di Ritorno al Futuro. Ora è la volta di un nuovo gruppo. Troverete tutti questi dettagli, compreso il nome del nuovo gruppo, nelle playlist di Eclettica che vengono pubblicate alla fine di ogni settimana e che possono essere anche inviate direttamente, nel caso vogliate rimanere comodi, nella vostra casella di posta, se vi iscrivete alla lista nera di Eclettica scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Il nome di questo nuovo gruppo è Circus Devils. Loro provengono da Cleveland, sono un trio capitanato da tal Robert Pollard. Ho lasciato un attimo la sospensione per attirare la vostra attenzione e vedere se questo nome Robert Pollard vi fa ricordare qualcosa. Infatti Robert Pollard è colui che ha fondato i Guided by Voices e uno degli altri membri del trio in questione dei Circus Devils è passato da quelle parti per qualche mese, ha suonato il basso all'interno dei Guided by Voices. Vi ricordo il nome, Circus Devils, incidono per la Ipecac Recordings e questa è In Madonna's Gazebo. Today, the stallion loves you, but will not live.